Yeah, Flautolento MC. You can come get some. Yo. Ti ho conosciuta tipo col tuo strano savoir faire. Con la tua voce strana mi sembravi quasi Cher. Cosa vuoi ti dica se tu ora sei mia amica? Se solo non fossi tu che direi che Dio ti benedica. Ho capito presto il tuo grande potenziale. Proprio quando mi dicesti che ti piaceva anale. Ci ho provato, ti ho pregato, sotto il naso te l'ho infilato. Ma non c'è stato nulla da fare, hai preferito lo sfigato. Cara sorellina, mi ricordi tanto il mare. Con più schizzi di uno scoglio sei una zona balneare. Cara amica mia, un consiglio senza impegno. Tira la pena meno che c'è la figa come il legno. Le tue gambe di esclusivo hanno sentimento. Per provare a entrare ti propongo un pagamento. Ti offro 15, di sicuro non di più. Già con 20 euro posso avere ben di più. Dai ragazza, non farti più pregare. Con quella figa slabra sei un bene popolare. Ho capito presto il tuo grande potenziale. Proprio quando mi dicesti che ti piaceva anale. Ci ho provato, ti ho pregato, sotto il naso te l'ho infilato. Ma non c'è stato nulla da fare, hai preferito lo sfigato. Ora che ho cantato il mio pezzo rap, non mi ringraziare, la tua figa fa clap clap.